Prego, si accomodi, fra pochi minuti cominciamo. Grazie. Prego, fra due minuti cominciamo. Grazie, grazie. Mi scusi, non sapevo che lei... Nessun problema. Salve. Lei è qui per... Prego. Sì, dicevo, lei è qui per la selezione. Sì, certo, ovvio. Ovvio. Io sono Luca Palmieri. Sara Milani. Il mio appuntamento è alle 10. Anche il mio. Alle 10? Sì, perché? È sicura? Ma certo che sono sicura. No, perché di solito i candidati vengono scaglionati. Si accomodi, arrivo subito. Grazie. Buongiorno. Salve. Sono in anticipo? A che ora è il suo appuntamento, scusi? Alle 10. Ne è sicura? Beh sì, perché? Nulla, curiosità. È che anche noi siamo stati convocati alla stessa ora. Eh sì, nel senso che normalmente queste selezioni si fanno singolarmente e gli appuntamenti sono scaglionati. Probabilmente ci sono 3 persone che contemporaneamente fanno le selezioni. 3 persone? Beh sì, potrebbe essere, no? Potrebbe essere. Ma figuriamoci, sarebbe uno spreco di personale senza un vantaggio né di tempo né economico. Era solo un'ipotesi. E poi noi siamo 3 adesso, ma mica sappiamo se devono arrivarne altri. Oppure hanno fatto altre selezioni e hanno perso tempo. Per questo hanno dato a tutti lo stesso orario e ci hanno detto di essere assolutamente puntuali. Questo già ha più senso. Beh sì, potrebbe essere. Piuttosto, mi presento. Io sono Paola, Paola Antonelli. Luca Palmieri, piacere. Piacere. Sara Milani. Comunque noi siamo tutti e 3 puntuali, no? Adesso sono le 10. In punto. Non è certo una multinazionale svizzera questa. Ah, multinazionale svizzera, ho capito, divertente. Piuttosto, non ci conosciamo. Cioè? Ma non ci conosciamo già, magari a qualche altro colloquio, oppure a qualche altro corso, sai, io ne ho fatti tanti. Beh, non saprei, sa, io non sono molto fisionomista. Io mi sono laureato a Roma, la Sapienza, ingegneria gestionale, magari in facoltà. Anch'io mi sono laureata a Roma, però è economia aziendale. E lei? Giurisprudenza, Bocconi. E poi Londra, Master in Sviluppo Internazionale. Allora mi sbaglierò. Però adesso che la guardo meglio, anche a me viene in mente che forse ci siamo già incontrati, che strano. Ma sì, forse deve essere stato qualche altro corso. Io non capisco, sono qui da 10 minuti, sono in orario e nessuno si fa vedere. È seccante. Effettivamente siamo qui da 10 minuti e non si vede proprio nessuno. Se è così non è corretto. Noi siamo qui in orario e il colloquio deve avvenire con chi è regolarmente presente, come stabilito dalla convocazione. Altrimenti siamo buoni tutti ad arrivare quando ci pare e piace. A proposito, voi avete riempito online il questionario oppure lo avete mandato per raccomandata? Io ho fatto tutto online, dal PC del mio compagno. Dal PC del tuo compagno? Perché? Non ne hai uno tuo? No, certo che ne ho uno, non volevo dire questo. Anch'io ho fatto tutto online, appena ho letto l'annuncio della selezione per questo incarico non ho perso tempo. Io sono venuta di persona. Sei venuta qui? Sì. E perché? Avevo tempo e mi sembrava più professionale, così conoscevo direttamente il responsabile. No, scusate, si poteva venire di persona, però non c'era scritto sull'annuncio. È vero, non c'era scritto. Ah, comunque non preoccupatevi, non ho incontrato nessuno delle incaricate alla selezione. Ho parlato solo con la segretaria che prendeva gli appuntamenti e ho scelto questa fascia oraria. Questa fascia? Ma perché ce n'era un'altra? Sì, quella delle 9. Ma per me era troppo presto, rischiavo di arrivare in ritardo. A me hanno dato su questa senza scelta. Anche a me. E allora? E allora vuol dire che qualcuno è stato esaminato prima di noi. Senti, io non so quello che vuoi dire e non mi interessa. So soltanto che mi stanno facendo aspettare e questo mi dà molto fastidio. Effettivamente ormai sono passati 10 minuti da quando siamo entrati e non si vede ancora nessuno. Non dirlo a me che sono arrivata prima di tutti voi. Arrivare prima non vuol dire nulla, la convocazione era per le 10. Senti... Comunque volevo dire un'altra cosa. Cosa? Quello che volevo dire è che se ci fanno aspettare, potrebbe essere che nella selezione delle 9 hanno trovato qualcuno che gli va bene. Cioè? Cioè che non ci fanno il colloquio. Eh no, non possono mica farlo. Se è andata così, mettiamoci l'animo in pace. Non è possibile. Appunto, non è possibile. Io sono arrivata qui dopo aver preso un appuntamento. Questa è una multinazionale, ci sono delle regole da rispettare. Guarda che delle regole ci si fa carta straccia se uno vuole. Comunque, io adesso vado a cercare qualcuno e chiedo perché non mi fanno il colloquio. Fa come ti pare, ma tanto è tempo perso. Non penso proprio, ognuno fa come crede. Quello che non capisco però è perché hai buttato via un'occasione d'oro scegliendo la seconda fascia quando ti era stata offerta la prima. È vero. Avevo una cosa da fare prima. Non sono cose che vi riguardano. Comunque non è giusto che a chi ha fatto tutto online non siano state date le stesse possibilità di chi è venuto qui di persona. Se uno ha un po' di ambizione, si dà da fare. Qui non si tratta di ambizione, ma di lavoro. Sentite, io non vi conosco e non so quanto avete investito nella vostra formazione come io ho fatto nella mia per raggiungere un certo livello di carriera. Quindi io le occasioni ci tengo e non voglio perderle. Allora era meglio venire alla prima fascia anziché rifiutare. L'avessero offerta a me un'occasione del genere, non me la sarei lasciata sfuggire, certo per paura di svegliarmi presto. Scusate il ritardo, sono stato trattenuto da una telefonata importante. Nessun problema. Può capitare, no? Certo. Grazie per la vostra comprensione. Si figuri. Anche se però... Però cosa? Beh, se io fossi stato al vostro posto mi sarei indispettito che mi si lasci qui un quarto d'ora ad aspettare dopo che mi è stato detto di arrivare con la massima puntualità. Ma ognuno è fatto a modo suo, no? In effetti ne stavamo parlando. Davvero? Più che altro ci domandavamo com'è andata la prima selezione di colloqui. Quale selezione? Quella delle 9. Sì, e noi che abbiamo fatto tutto online non ne sapevamo nulla. Magari potevamo scegliere. Non c'è stata nessuna convocazione, voi siete i primi che vediamo. Veramente a me hanno detto che potevo scegliere. Davvero? Io non ne so nulla. La segretaria, quando sono venuta. Strano. Anche perché io sono il responsabile di questo colloquio. È lei che fa le selezioni? Io faccio il colloquio e presento i risultati alla commissione. Ottimo, così non ci sono intermediari. Perché? Lei avrebbe problemi a fare un secondo colloquio? Magari alla sede centrale? No, ovviamente no, certo. Voi avreste problemi? No! Benissimo, allora vediamo un po' i vostri fascicoli. Scusi? Dica. Facciamo il colloquio tutti insieme? Cioè? Facciamo il colloquio qui tutti insieme o separatamente? Perché siamo stati convocati tutti per le 10 e comunque ora sono quasi le 10:20. Lei ha un impegno a breve? Io? Beh no. Comunque, faremo un colloquio tutti assieme. Questa è la politica dell'azienda. Nessun problema. Anche per me, ovvio. Piuttosto, se mi posso presentare. Andiamo con ordine. Certo, mi scusi. No, non si deve scusare. È che io ho un report preciso da compilare, che segue una procedura standard definita che non posso modificare una volta che il colloquio ha il suo start. Come è normale, ovvio. Bravo, è proprio così. Lei ha fatto l'esaminatore in qualche colloquio di questo tipo? No, però ho fatto diversi colloqui per trovare un incarico che potesse gratificarmi come ritengo la mia portata. Capisco. Allora lei è Luca Palmieri. Sì, piacere. Lei è... Paola Antonelli. Esattamente, molto lieta. Io sono Sara Milani. Sara Milani. Ci siete tutti? Siamo solo noi tre per il colloquio? Sì, certo. Ottimo. Ho visto le schede di molti candidati, ma penso che tra voi ci potrà essere quello che cerchiamo. Benissimo. Per prima cosa, vorrei che ognuno di voi scrivesse brevemente su questo foglio la motivazione che lo ha spinto, o spinta, a questo colloquio. Quanto tempo abbiamo? Ho due parole semplici, niente di retorico. Se possibile, siate sinceri. È importante. Due parole sincere. Esatto. Non vuole farci delle domande sul nostro curriculum? Non vi preoccupate. Più siete semplici e diretti, meglio. Mi scusi, ha una penna? Certo. Prenda la mia. Magari le porta fortuna. Grazie. Prego. No, no, niente, dottoressa, si occupi del foglio. Mi scusi, ma questo rumore? Beh, deve concentrarsi lo stesso, la prego. Quanto tempo rimane? Niente, è finito. Grazie. Grazie. Grazie. Non li legge? Cosa? I fogli. Appunto, non guarda quello che abbiamo scritto. Dopo ci sarà tempo. Adesso vorrei domandarvi... Se ritenete che la vostra esperienza lavorativa sia ad ora acquisita, vi può dare il titolo ad accedere a questo incarico, che come sapete è di prestigio, ma anche di responsabilità. Chi vuole cominciare? Dottoressa Milani. Le mie esperienze sono tutte ben elencate nel curriculum e anche se ancora giovane ho ricoperto incarichi di responsabilità in molte aziende italiane. Forse qualcuna... Mi permetta, dottoressa? Prego. Ma se le sue esperienze lavorative erano qualificanti... Perché se n'è andata? Perché ho investito e continuo a investire molto nella mia formazione e voglio che questo mi conduca a una gratificazione lavorativa ed economica adeguata. Capisco. Penso che non ci sia nulla di male. No, no. E ritorna come valore aggiunto. Ho capito. Cosa pensa di quello che ha appena detto la dottoressa? Beh, essere ambiziosi può tornare utile, ma ha anche i suoi pericoli. Lei definirebbe ambiziosa la dottoressa Milani. Mi scusi, ma non vedo come questo... Permetta, dottoressa. Lasci finire. Dica. Veramente non è che sono qui per dare giudizi sugli altri aspiranti. Effettivamente questa forma di colloquio è la prima volta che mi capita. La disorienta forse? No, assolutamente no. Però normalmente i colloqui... Diciamo che questa situazione le crea stress. Assolutamente no, le ripeto. E perché mai? Soltanto non è quella che normalmente mi è capitato di incontrare, tutto qui. Anch'io lo facevo presente che non c'è nulla di anormale in un colloquio multiplo. Ma forse l'ingegnere... Lei è ingegnere, vero? Sì, ingegnere, certo. Forse l'ingegnere non ha molta pratica nella gestione delle dinamiche di gruppo. Ma veramente io... Anche lei pensa la stessa cosa? Beh, non so, forse... Ma io... No, ma... Ingegnere, le sue rivali concordano che lei non sia adatto a questo ruolo. In effetti, se ha difficoltà in una situazione del genere, come farà a gestire un gruppo e magari a fungere da tramite con un vertice? D'altronde, nel suo curriculum vedo che lei ha sempre avuto ruoli di carattere tecnico. Mi scusi, io però non credo che il termine rivali sia proprio corretto. E tecnico non vuol dire mica di secondo piano. Certamente, ingegnere. Non si deve ritenere in difficoltà se non ha mai ricoperto incarichi di management, come è capitato a me e forse anche alla signorina. Dottoressa. Anche se da qui vedo che lei ha fatto un master in gestione del personale in aree critiche, che per noi sarebbe molto interessante. Sì, sì, sì, seguito sì. Anche da un ottimo tirocinio. Sì, io credevo che l'avesse già visto. No, mi deve essere sfuggito. Beh, questo cambia radicalmente il mio giudizio, ingegnere. Anzi, mi scusi, conosco personalmente il responsabile marketing della ditta presso cui ha lavorato e lo reputo persona di grande valore. Grazie, era quello che avrei voluto dirle prima, se ne avessi avuto modo. E allora poteva dircelo fin da subito, invece di farci perdere del tempo. Anche il mio fidanzato è ingegnere e le cose bisogna tirargliele fuori con le pinze. Davvero? Sì, però è informatico, tutta testa al computer. Quindi lei, dottoressa, ha una relazione stabile? Sì. Anche se di stabile oggigiorno c'è poco. E lei la cerca nel lavoro, un po' di stabilità. Anche, perché no? Mi sembra che non ci sia nulla di male. No, no, mi sembra giusto. D'altronde la stabilità nel lavoro o comunque un buon impiego permettono di fare molte cose nella vita privata. La vedo in disaccordo. Quello che dice la signorina non mi interessa. Peccato. Interessarsi a quello che viene detto è importante. Comunque sono cose, insomma, che fanno parte del privato di ognuno di noi. Magari ci sono altri progetti di vita, lavorativi, personali. Insomma, ognuno è proprio. Appunto. Appunto. Forse allora ci siamo incontrati tramite il tuo fidanzato. Ma perché? Vi conoscete? No, vede, prima, mentre aspettavamo, parlando, avevo detto che mi era sembrato di esserci già incontrati da qualche parte. Sì, sì, sì, è vero. Ma non ci venivano possibilità di aggancio, sa, quei discorsi. Però in realtà potrebbe anche essere. In fondo la città sembra sempre così grande che nessuno dovrebbe mai incontrarsi, invece finisce che ci si ritrova. È vero, è capitato anche a me. Pensate, con un mio compagno di scuola, perso di vista da 20 anni, ci siamo ritrovati al matrimonio di una mia cugina. Faceva il testimone dello sposo. Incredibile. Il mondo è piccolo. Sì, è un'ovvietà. Però è così. A lei non è mai capitato? Ma sì, certo. Nulla di particolare. Una cosa senza importanza. Ma no, la prego. Ci dica. Qualche mese fa ero al ristorante con delle persone. Vicino al nostro tavolo una coppia con dei bambini. Mi sento chiamare. È così. Di primo acchito non riconosco nessuno. Poi guardo meglio ed era una vecchia conoscenza. Il mondo è piccolo. Che l'avevo detto. Sì, e poi? Niente, buongiorno e buonasera. Non ci vedevamo da una vita. Era il fidanzatino del mare. Il fidanzatino? Sì, si era preso una gran cotta. Ma io avevo altri progetti. E lo ritrovo lì, dopo 20 anni. Sposato e con 2 bimbi. Stempiato e con la pancia. E che effetto le ha fatto? Nulla, nessun possibile. Effetto. Perché? Ma un fatto forse importante della sua vita che ritorna così dopo tanto tempo non le ha fatto provare nulla. Non so. Stupore. Piacere. Imbarazzo. Ai ai ai. Perché ha iniziato a rievocare tutta una vecchia storia inutile. Inutile? Ma sì, insomma, poi ero a cena con delle persone anche per lavoro. Beh, comunque, ci siamo salutati ed è finita lì. E la moglie com'era? Non ricordo. Insignificante. Peccato, certi incontri possono essere l'occasione di ritrovare persone a cui magari eravamo legati. Anche se talvolta possono riportare, sì, riportare alla mente cose che vorremmo dimenticare. Magari era questo il caso. Mi è sembrato solamente fuori luogo, tutto qui. Tutto qui? Sì. Mi ha dato anche il suo bigliettino da visita, ma figuriamoci, si era fatto delle idee all'epoca, se le rifarebbe anche ora. Li conosco, sempre pronti a tirare in basso senza dare nulla. Davvero? Comunque, un lavoro. O questo lavoro può essere un buon trampolino per tante cose, lo capisco benissimo, altrimenti non avrebbero chiamato qui proprio me a gestire questo colloquio con voi. Scusate. Mi chiamano nell'altra stanza, vi chiedo di attendere pochi minuti e tornerò. Non credo sia stato gentile da parte sua attaccarmi in quel modo. Prego? Sì, con la questione delle mie competenze in quanto ingegnere. Io ho soltanto espresso una mia opinione, su richiesta. Cos'è? È vietato avere delle opinioni? E comunque, quanto scritto sul mio curriculum ha chiaramente smentito le sue opinioni, anzi... Sul curriculum uno può scrivere quello che vuole. Ma lei è sempre così aggressiva. Ma cosa credi? Che il posto te lo daranno perché sei simpatico? No, ma... Perché sei spiritoso? Perché fai amicizia con le candidate? Veramente scambiare due parole aiuta, non siamo mica in un ring. A chi aiuta? A te? A lui? A me? Lasciamo perdere. Comunque, osservandolo dall'esterno, questo sistema di fare la selezione è interessante, anche se disorienta un po'. Mi domando poi come farà a tirare le fila del discorso. Io so soltanto che mezz'ora che sono qui e ancora non ho avuto modo di mettere in evidenza le mie competenze. Se è per questo anche noi non abbiamo potuto dire nulla. Ma cosa crede? Che siamo qui perché non abbiamo nulla da fare? Io almeno no. Io sono qui perché voglio questo lavoro. Congratulazioni. Allora ti auguro di riuscirci. Così ti sposi e sforni dei bimbi. Una bella famiglia è una sicurezza per chi si accontenta. Che a me piacerebbe una famiglia, ma non è facile. Auguri. Grazie. Ci vuole pazienza. Appunto. Appunto cosa? Ci vuole pazienza e sopportazione. E mi pare che non ti manchino. Decisione un po' meno. Mi scusi, ingegnere. Può venire un momento nell'altro ufficio? Sì, certo. Grazie. Due minuti e sono da voi, vogliate scusarmi? Prego. Hai visto? I soliti maschilismi. E poi ci ritroviamo chiuse in faccia le porte migliori perché siamo donne. Dici? Mi scusi, ingegnere, non avevo visto. Conosco personalmente il direttore del marketing. Ecco fatto, chiuso. E poi ti dicono, preparati, che ce la puoi fare. Fattele venire anche tu, rinuncia, sgomita. Ah, comunque io non mollo, Io al posto ci tengo. E non sarete certo voi a mettermi i bastoni tra le ruote. Io? Senti, neanche ti rispondo. Appunto, non sai che dire. E comunque è il tuo stereotipo che ci rovina. Sono qui per avere un buon posto e per mettere su famiglia. Famiglia, figli, chiusa credibilità, inaffidabile. Vista te, viste tutte. Ed io qui in mezzo ad affondare con una sfigata come te. Ma come ti permetti? Ma tu neanche mi conosci e tranci dei giudizi. Ma come hai fatto con quel poveraccio, l'ingegnere Palmieri, come si chiama? E va bene, sì, sarà uomo e sarà anche raccomandato. E allora tu non ti vergogni di averlo messo così in difficoltà soltanto per ottenere un tuo vantaggio? Io ho soltanto espresso una mia opinione. E l'avresti fatto anche tu se ne avessi avuto il coraggio e non ti fossi sentita in imbarazzo. Ma non l'hai visto come ti ha messa nel sacco con quella storia del «ci conosciamo»? Cioè? L'ho visto fare 100 volte. Si cerca di creare una sorta di simpatia con un candidato concorrente, di modo che tu abbia degli scrupoli nel dire delle cose che possono metterlo in difficoltà durante il colloquio. Ma io non ci avevo pensato. È un trucco per avere vantaggio sugli avversari. Una tecnica tipicamente maschile, te l'assicuro. Ma non è possibile. Sì, intanto lui è di là che parla a quattro occhi con l'esaminatore mentre noi siamo qui parcheggiate. Ma perché mi faccio fregare sempre così da tutti? Oh, lascia perdere. Non te ne fare un dramma. Si capiva da subito che tra noi tre tu sei la più debole, la meno adatta a questo incarico. E sentiamo, da che cosa l'avresti capito? A pelle. Non è un ruolo adatto a te. A pelle? Allora guarda, in tutta sincerità, a pelle. Non lo è neanche per te. Dice che fra un attimo rientra. E allora? Allora cosa? Ti pare corretto? Di che parli? Tutta quella storia del ci siamo già conosciuti, eccetera, eccetera. Cosa? Brava, vedo che inizia a tirare fuori le unghie. Senti, tu non mi devi infinocchiare solo perché io sono una donna e non sono aggressiva. Io sono qui perché ho bisogno di questo lavoro. Ma si può sapere che volete da me? Tanto è sempre così con gli uomini nei posti di lavoro. Se proprio volete saperlo, mi ha chiamato di là perché non gli funziona un computer. E come al solito, pensano che gli ingegneri siano capaci a mettere tutto a posto. Davvero? C'è poco da ridere. Che spasso il super ingegnere iperqualificato trattato come un ragazzino smaneggione. Gliel'hai saputo aggiustare almeno? No. No. Ma certo che no, e che ne so io di quella roba? Sei patetico. Ma... io che pensavo di dovermi preoccupare di te. Ma come ti permetti? Perdi anche le staffe. Ma come vorrei che ci fosse qui una telecamera a riprendere la scena mentre piagnucoli. Smettila! Hai visto come te li puoi mettere nel sacco questi ometti? Ti diverti con poco tu. Io invece non mi diverto per niente. Io so solo che sto qui da un'ora e ancora non ho capito che diavolo ci stiamo facendo. Comunque, mentre stavo lì al computer, ho visto che si leggeva quello che abbiamo scritto sui fogli. Oh, finalmente! E perché tutta questa gioia? Che cosa mai ci avrei scritto lì sopra per essere così sicura di avere il posto? Sì, sono curiosa anch'io. Perché così convinta? Non sono cose che vi riguardano. E invece sì, visto che qui mi pare che di competenze ancora non si è parlato neanche un momento. A me sembra che se sei ingegnere, economista o avvocato, non gliene importa nulla. Può darsi. Le competenze sono fondamentali, ma è il carattere quello che conta, per fortuna. E allora sentiamo, come mai non hai ancora un impiego di prestigio come il tuo carattere meriterebbe? Perché io i posti li rifiuto se mi vanno stretti. A me pare che tu sia senza impiego e sei pure sola. Complimenti! Cioè? Vogliamo parlare dell'incontro con il tuo fidanzatino? Secondo me lui ti ha lasciata, perché tu eri insopportabile anche da ragazza e ora ti rode che lui abbia una bella famiglia, una bella moglie, dei figli e soprattutto un impiego di prestigio che tu neanche ti sogni. Straparli! Queste si chiamano occasioni mancate. Eccomi! Mi scusi, ma la conduzione di questo colloquio mi lascia veramente esterrefatta. La vedo agitata, non credo sia a caso. È quasi un'ora che sono qui e ancora non si è parlato di incarico, di competenze, di contratti. Si tranquillizzi, dottoressa. Erano gli argomenti che intendevo trattare ora. Ma se lei ritiene che la conduzione di questo colloquio non la soddisfi, può anche concludere qui la sua presenza presso i nostri uffici. Non c'è nessun problema. Farà sicuramente un piacere ai suoi due colleghi. Ma questa è una scelta sua. Non volevo assolutamente dire questo. È che la situazione mi disorienta. È disorientata? Io no. Vedo che l'ingegnere sta cogliendo lo spirito del nostro incontro. Quale spirito, scusi? Ma lo sa che quando si arrabbia la sua voce è molto squillante? Come dice? Prima. Sì, mentre discutevate. No, di là si sente tutto, gli uffici sono di cartongesso. Ci spiava? Certo che no, ma era impossibile non sentirvi. E comunque mi piaceva. Decisione, determinazione. Complimenti, dottoressa Antonelli. Grazie. Credo anche che in quel momento lei fosse particolarmente bella. Cosa? Sì, lei è già una donna molto interessante, ma credo che quando si inalbera lei divenga ancora più bella. La imbarazzano i miei complimenti? Io penso cosa? Le secca che abbia fatto un complimento alla dottoressa e non a lei? Certo, perché io l'avrei apprezzato, mentre così è caduto nel nulla. Non si sarebbe sentita imbarazzata come la dottoressa, ne è certa? Assolutamente, io so di piacere, i complimenti non mi fanno paura. Questi non sono complimenti. Ma in fondo lei è un uomo, è comprensibile. Mi scusi se mi permetto, ma io penso che la conduzione di questo colloquio dovrebbe essere ricondotta ad argomenti più professionali. Stia zitto, ingegner Palmieri. Ma... ha qualche problema? Sì, lui ha dei problemi, ma è molto bravo a nasconderli. Ma io... Scusate, io non credo di essere più interessata a questo colloquio. Credevo che l'azienda avesse un profilo differente. Perché? Non ha stima della mia professionalità di selezionatore? Ho detto solo che credevo che l'azienda fosse diversa. Anche lei pensava fosse diversa? Io? Lui non pensa. Lui è abituato ad obbedire. Non è un incarico adatto a lui. Lei pensi per sé? In effetti, dottoressa Milani, Sara, se posso permettermi. Certo. Ecco, Sara, mi sembra che tu voglia sostituirti a me nella conduzione di questo colloquio. Finalmente l'ha capito. Per cortesia. Non è carino quello che stai facendo, vero Sara? Non volevo assolutamente mancarle di rispetto. Brava! La parola giusta. Rispetto. Rispetto. Capito? In azienda è una parola fondamentale. Nell'affidare un incarico importante, io, noi, l'azienda che qui rappresento, vuole essere sicura che vi siano in voi delle qualità delle qualità, vorrei dire, morali. Ma le competenze professionali, ma il curriculum... è ingegnere gestionale, no? Massimo dei voti, ottime presentazioni. Lei, dottoressa in economia, una serie di collaborazioni con enti pubblici e privati che le fanno onore. Sì, per lei, questo volevo... Lei, avvocato internazionalista, master su master, incarichi di alto profilo, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Bene. E su questa base io credo che tutti voi abbiate interesse a questo incarico, no? Certo. Sono soldi, molti soldi. È una dose non trascurabile di prestigio e potere sociale. A ciascuno di voi tutto questo interessa o no? Senta, veniamo al dunque. Ma quale dunque? Ma non vedete che ci sta prendendo in giro da un'ora? Dobbiamo ridere? È così? Potrebbe anche essere, perché no? Ma certo che è così. Arriva ritardo, poi il colloquio multiplo, poi i fogli, i complimenti e poi il pistolotto sui soldi e sul prestigio. E magari da quella telecamera lì ci sta riprendendo, poi ci manda anche su scherzi a parte i complimenti. È così. Avete perfettamente ragione. Bravi. Benissimo, è una bufala. Lasciate perdere, andate via. E tu? Io? Tu, proprio tu. Io rimango. A me piace giocare fino in fondo. Chissà che non porti a casa tutto il montepremi. Mi sembra di essere ad una di quelle trasmissioni di poker in TV. Bravi, continuate. Facciamelo lo spiritoso lei, eh? Io sono la persona seria. Oh, ingegner Palmieri, non le sembra di esagerare? Mi scusi, non so che mi ha preso. Si deve regolare però. È colpa loro che mi stanno facendo una gran confusione in testa. Nostra? Cosa? Forse lo fanno apposta. Cosa? Ci hai mai pensato? Ma che cosa sta dicendo? Forse pensano di propormi una suddivisione dell'incarico tra loro due. Sarebbe anche possibile. E sicuramente due donne giovani, belle, agguerrite, sono un'immagine migliore per un'azienda come la nostra. È vero quello che dice? È vero, c'è la possibilità della suddivisione dell'incarico? Potrebbe anche essere, perché no? Io non divido niente con nessuno, sia chiaro. E perché niente uomini? Ma lo chiedo alle sue colleghe rivali, sono loro che me l'hanno proposto. Io non capisco perché farmi una cosa simile dietro le spalle. Ma io non ne sapevo nulla. Ma cosa credi, che uno perché è gentile è un fesso? Che è ingegnere vuol dire che sei sfigato? Ma che dici, anche il mio ragazzo è ingegnere. Balle, tutte balle per cercare di renderti simpatica. Io il tuo ingegnere non l'ho mai visto, ma chi è? Chi lo conosce? Senti, smettila, stai diventando ridicolo. E non ti permettere di darmi del ridicolo! Aia! Ma sei pazzo! Ma che cosa fa? Bene, scusa. La caviglia! Ma io... Ma che cavolo! Ma non volevo. Certo che non si è proprio regolato, ingegner Palmieri. Io non volevo, scusatemi. È che credo non sia giusto prendermi in giro. Aspetta che ti aiuto. In questo non posso darle torto. In effetti... Non vi siete comportate in maniera corretta da team, da squadra con il vostro collega. Non è bello aggredire alle spalle e mettere in difficoltà le persone nei loro punti deboli. Senta, qui se c'è qualcuno che sta creando scompiglio da un'ora, quello è lei. Ci vuole del ghiaccio. Ecco, vada dalla segretaria, se ne faccia dare. Ce ne deve essere nel frigo della sala conferenze. Ti accompagno. Aia, sì, grazie. Vi aiuto? Ma lascia perdere, che goffo come sei ne combineresti un'altra delle tue. Io non volevo certo che la signorina si facesse male. Lasci stare, non si preoccupi. Non mi farà causa. Ma figuriamoci. Le donne sono sempre così, impiastre. Dice? Certo. Ma guardi, ingegner Palmieri, che se fosse stato per me, io non avrei neanche fatto tutta questa storia del colloquio. Davvero? Ma dopo aver letto il suo curriculum, non c'era gara fra lei e loro due. Grazie, questo mi gratifica. E poi insomma, lei è un uomo. Effettivamente. Ma quelli dell'azienda hanno voluto a tutti i costi che io convocassi anche le signore, lo sa, no? Pari opportunità, quote rosa, e guardi che perdita di tempo. Quindi secondo lei... Ormai siamo in ballo. E noi dobbiamo ballare, caro Palmieri. E certo quello che ha combinato lei ora non è proprio un gran capolavoro. Aggredire così la signorina. Ma io non ho aggredito nessuno. Però è stato divertente. Come quel film di Kubrick. Ha presente? No, non so, non vado molto al cinema. Cosa c'entra il cinema? Quale cinema? Kubrick è roba da repertorio, classico. Arancia meccanica. Arancia meccanica. Ha presente quando loro entrano con le maschere e le mazze da baseball? Spaccano tutto e violentano la donna. Una scena eccezionale. Davvero? Lei era un gran pezzo di donna. E da come ce la fa vedere il regista, probabilmente se lo meritava. Chiaramente una depravata. E sicuramente tradiva il marito. Io non... Non è d'accordo? Su cosa? Che se lo meritava. Non so, io... Mi dica, ingegnere, ma lei ce l'ha una donna? Una donna? Sì, una compagna, una fidanzata. Attualmente no. Attualmente? Sì. Sì? Cioè no, diciamo di no. Ah, forse lei è un timido. Timido? Sì, un introverso, un debole. No, io non credo. No, non credo o non lo è? Forse. Forse che cosa? Forse lo sono. Anche con le donne? Le donne. Allora, con gli uomini? Gli uomini? Ingegnere, lei è confuso. Ma no, è che tutte queste domande... Perché scusi, cosa c'è che non va nelle mie domande? Ecco, io sono qui per un colloquio di lavoro, non vedo cosa c'entri tutto questo. Perché vede, in quello che lei ha scritto nel foglio, mi sembra che abbia poca determinazione. E invece per il lavoro e per le donne ci vuole polso, questo lo sa, vero? Ma io ho determinazione e polso, ha visto prima, no? Ho visto, certo. Anzi, vorrei proprio mettere in evidenza le mie capacità a riguardo. Palla di lardo. Come? Full Metal Jacket, altro capolavoro, soldato palla di lardo. Io veramente stavo dicendo che... Alla fine però si spara, che stupido. Chi si spara? Non aveva le palle, eppure aveva fatto secco il sergente. Il sergente? Sì, ma non ha retto. Niente palle. Un debole. Lo sa, mi sono fatto grandi risate. Lei è un appassionato di cinema, mi sembra di capire. No, assolutamente no! Una perdita di tempo da intellettuali. Ma adoro i film di Kubrick, un grande uomo, prima ancora che un artista. Io non ho molto tempo per il cinema, lo studio, il lavoro. Dovrebbe affittarli questi film. Se li può vedere a casa, anche da solo. Sì, così non avrebbe il problema di trovare qualcuno che l'accompagni al cinema. Per non sembrare uno sfigato, uno che non ha né amici né donne. Adesso lei però... Lolita invece, una storia estremamente eccitante. Conosce? Non saprei. È la storia di una ragazzina, un adolescente, che suscita in un uomo maturo pensieri peccaminosi. Quali pensieri? Di quelli che non dovremmo mai avere. Ma che tutti noi abbiamo, vero? Ma torniamo a noi. Caro ingegner Palmieri, io vedo in lei grandi potenzialità, ma devo essere sicuro che lei sia persona adatta alla nostra azienda. Su, mi racconti qualcosa di sé, del suo progetto di vita e lavorativo. Praticamente, io ho intenzione di raggiungere una posizione di responsabilità, come il caso di questo incarico nella vostra azienda. Bene. Perché mi sento in grado di dimostrare competenze tecniche e caratteriali e morali, come lei diceva giustamente prima, adeguate a svolgere compiti dirigenziali di alto livello. Molto bene! Effettivamente, fino ad ora ho svolto ruoli principalmente di tipo tecnico, che non hanno messo in luce, ecco, per dire, la mia vera indole. Cioè, che indole? Io, per mia natura, ho una spiccata capacità di comprensione dei bisogni e degli obiettivi, di un gruppo e di singoli. Davvero? Sì, sono anche un po' psicologo. Ottimo! Grazie, però fino ad ora non mi è stata offerta la possibilità di dimostrarlo. Questo è ingiusto, allora. Lo penso anch'io, profondamente ingiusto e immotivato, perché... Spesso oggigiorno la precisione, la serietà, diciamo anche la correttezza, non vengono adeguatamente valutate, oppure addirittura vengono considerate come dei disvalori. Quindi lei pensa di essere stato perseguitato? Perseguitato è un po' troppo. Sì, insomma, che ce l'hanno con lei. Non so, ma cosa c'entra questo? Ah, no, no, niente, scusi, stavo seguendo un pensiero. Prosegua. Dicevo, sì, dicevo. Prosegue, ingegnere. Un momento, ho perso il filo. Diceva che attualmente certe sue qualità non vengono sufficientemente prese in considerazione. Appunto. Io credo che lei non abbia molta autostima, vero? Veramente? Forse è per questo che lei dopo un po' lascia il suo posto di lavoro, perché si sente inferiore agli altri. Siamo noi due qui, da soli. Può anche ammetterlo, a me non importa. Io credo di valere, ma finora non mi è stata data l'occasione per dimostrarlo, tutto qui. E la mia famiglia, la gente, si è fatta un'opinione sbagliata. Ma non è così, ovviamente. E sa, i pregiudizi, i confronti, capitano una volta e poi rimangono lì. Io non me ne faccio sangue amaro, mai fatto. Però questa è un'occasione. Questo lavoro potrebbe essere la volta buona, vero? Beh, potrebbe, sì, potrebbe. Vede, in qualche occasione non mi sono fatto valere come avrei dovuto, non dico di no. Davvero? Sì, all'università, al lavoro, in famiglia, anzi, ne sono sicuro, potevo essere più deciso. Peccato. E ora mi sono stancato di essere sempre quello a cui manca lo sprint finale, quello da sacrificare. Ma è possibile che ci debba essere uno a cui tocca recitare questo ruolo? Ecco, io sono sicuro che questo lavoro sarà la dimostrazione che loro si sbagliano, che non sono quello che mi hanno sempre fatto credere di essere, che io sono come e anche più degli altri! Bravo! Così mi piace! Mi scusi, mi sono fatto prendere dalla foga. No, non si preoccupi. Senta, nel caso che io propendessi per lei, lei sarebbe disposto a prendere meno di quanto potremmo offrirle da contratto? Ma veramente non si è ancora parlato di soldi? No, è un ottimo stipendio. E poi lei è da solo, no? Sì. Dunque non toglierebbe niente a nessuno. Non capisco. Mi domando, se lei sarebbe disposto a ritirarmi, sì, diciamo, un terzo del suo salario sul mio conto speciale, ecco. Dovrei pagarla per avere il posto? Ma che brutte parole usa, ingegnere! Mi scusi, allora sicuramente ho capito male io. Ovviamente! Ebbene, perché pensi che io... Quindi? E quindi cosa? No. Ma lei intende... No, se non vuole, come non detto. Aspetti, non ho detto che... Caro Palmieri, sono molto felice per lei. Ma aspetta! La sua fermezza nel rifiutare la mia offerta dimostra che la sua autostima sta salendo! Peccato che questo contrasti con i miei interessi. Ma io quel posto lo voglio! Ah, lasci stare. È inutile tornare sui propri passi. Quel posto ormai è andato. Ma come? È andato bene? Cosa? Senta, senta, io le do quello che vuole. Guardi, non mi interessano i soldi. Davvero? Niente soldi? No, cioè sì. Però adesso quei soldi non mi bastano più. Non bastano? No. Ne vuole il 50% e io glieli do volentieri, lei li deve accettare senza problemi. Ma guardi, ingegner Palmieri, che non deve mica dirmelo lei quello che posso o non posso fare, capisce? Io non capisco. Ecco appunto, lasciamo cadere la cosa. Consideri però che sia la Milani che l'Antonelli sono disposte a ben altro. Sono disposte a cosa? E lei si fa scrupolo per 4 miseri soldi. E dopo tutti i discorsi che mi faceva prima, lei mi stupisce, ingegnere. Va bene, però... Però ormai è tardi per lei. Ma se me l'ho appena chiesto. Prima era questione di soldi. E ora? Ora i soldi non mi bastano più. E allora cosa vuole da me? Maggiore disponibilità, capisce? E disponibilità, certo! Guardi, ingegnere, lasciamo perdere! No, no, no, veramente io mi adatto, mi rendo disponibile! Io posso fare qualsiasi cosa mi viene chiesta! Per quella storia prima del computer, lei deve capire che io non ho le competenze giuste! Vorrebbe mettersi in ginocchio? Per favore! Può ripetere, scusi, credo di non aver capito. Vorrebbe cortesemente mettersi in ginocchio, ingegnere? In ginocchio? Ma che fa dicendo? Ma certo che no! No, no! Pensavo che lo volessi in questo posto. Sì, ma... Palla di largo l'avrebbe fatto. Anche se poi è stato così stupido da sparare al sergente. Senta, io non contesto che lei faccia un film di questo Kutrich. Kubrick. Kubrick, sì. Il nome esatto è Kubrick. Kubrick. Ma... Allora! Allora! Non vuole leggere meglio il mio curriculum? È umiliante. Appunto. I lavori sporchi sono per chi sta in basso. Più vicino, ingegnere. Che fa? Ha paura di me. Lo vuole o non lo vuole questo posto che dimostrerebbe a tutti quanto lei vale? Il piede non ha nulla, per fortuna. È andata un momento alla toilette. Ottimo! Ma vedo che qui non si è perso tempo. Vero, ingegnere? Mi era caduta la penna. L'ingegnere mi stava facendo vedere quanto ci tiene a entrare a far parte della nostra grande famiglia. Piuttosto, vediamo un po' quello che ha scritto lei nel foglio. Lei scrive... Ah, le dispiace se ne parliamo davanti all'ingegnere? Se volete esco! Non ho problemi, nessun segreto. Se volete lo ridico a voce. Questo incarico è perfetto per le mie doti di gestione del personale finalizzata al miglior utilizzo per i fini aziendali in termini di massimo rendimento e al minor costo possibile. Cosa intende dire con questa affermazione? Che ho capacità nel gestire le persone e utilizzarle al meglio per gli scopi dell'azienda. Questo mi sembra un'ottima competenza, non crede, ingegnere? Io... Grazie. Mi dica, lei ha sempre avuto questa dote, dottoressa? Sì, credo che sia una dote naturale avere ascendente sulle persone. Te la ritrovi fin da quando sei piccola. Quindi lei ne ha coscienza fin da quando era, diciamo, bambina? Sì. Interessante, si spieghi meglio. Quando sai di poter ottenere, impari a chiedere. E impari a conoscere com'è la gente. E quando chiedi e ottieni, ti accorgi che non ti basta mai. Complimenti. Certo, è una predisposizione, una risorsa che va curata, va perfezionata, messa a frutto. Ecco perché ritengo che questo ruolo sia ottimo per me e per l'azienda. Vede, Io conosco le persone, so ottenere quello che desidero, quello che mi spetta. Non potrei fare nessuna obiezione. Ovviamente tutto questo messo in relazione... Anche se però non capisco come tutto questo possa essere accettabile per noi. Accettabile? Sì, dico moralmente accettabile. Moralmente? Ma qui stiamo parlando di lavoro. Cosa c'entra moralmente? Mi dica, lei cova del risentimento verso qualcuno in particolare? Risentimento? No. Peccato. Potrebbe esserci utile sapere perché lei è così indifferente ai sentimenti altrui. Perché io so quanto valgono le persone e non mi faccio scrupoli. Ingegnere, cosa ne pensa? Io... Cosa c'entra l'ingegnere adesso? L'ingegnere è un candidato concorrente a questo incarico, potrebbe avere un punto di vista interessante. Un punto di vista dal basso, visto che era in ginocchio davanti a lei quando sono entrata. Lei ha capito male quello che ha visto? Io non ho capito male proprio nulla, ci mancava solo che gli tirasse giù la lampa. Senta, lei... Insomma, per favore, veniamo al dunque, io sono qui e mi sto facendo perdere del tempo inutilmente. Non credo, dottoressa, lei è qui per ottenere quello che vuole, no? Oppure lei non sa quello che vuole? Io lo so perfettamente. E pensa di trovarlo qui da noi? Sì. Ne è certa? A me piace lavorare bene e ottenere il giusto riconoscimento dei miei superiori. Non lo fa per danaro. Anche, ma non è tutto. A lei piace dell'altro. Altro? Anche. Non dover chiedere, ma solo ottenere. Forse. E perché ottenere senza chiedere? Perché quando si chiede, bisogna anche dare. Io però se non mi dispiace... Non le interessa, ingegnere? Se lei crede che sia proprio necessario... Non le interessa il profilo della dottoressa? Certo, sì. Dunque, a lei piace ottenere dai suoi sottoposti ciò che ritiene le spetti, anche senza dare nulla in cambio. Se si tratta di lavoro, sì. Quindi le piacerebbe esercitare il potere sotto l'ala protettiva della nostra multinazionale, accanirsi su dei poveri cristi che debbono arrivare alla fine del mese, magari facendosi leccare anche le scarpe. Se questo fosse utile all'azienda, sì. All'azienda. E ci si divertirebbe anche, vero? Non ci trovo nulla di male, eticamente e moralmente, nel mettere in evidenza le proprie doti a scapito di chi ne è privo. L'ho visto fare tante volte e ne ho visto trarre sempre dei grandi benefici. Certo, poi se vogliamo fare del pietismo e del buonismo, facciamolo pure. Uguaglianza. Rispetto. Dignità. Ma siamo certi che con il pietismo e il buonismo ci si riempiono le chiese e le piazze, non le fabbriche, non i mercati, non ci si accende la lavatrice, non ci si vede Sky o si gioca alla PlayStation. Io non voglio la miseria della mediocrità, non la voglio per me, e se c'è da avere del pelo sullo stomaco io me lo faccio venire senza nessuno scrupolo. Ingegnere non dice nulla. Ma io... stai zitto! Brava, iniziativa ci vuole. L'ho capito fin da subito che tu sei una di quelle mediocrità senza nerbo raccomandate che mi hanno sempre intralciato. Io sono qui per... Appunto, te ne vieni qui con quell'aria da scienziato secchione che si è guadagnato la laurea studiando notte e giorno. Ma cosa credi? Perché sei di buona famiglia? Perché sei servo? Perché sei uomo, ti abbassi i pantaloni che ti danno il posto di lavoro? Mi fai ridere! Senta! Mi piace, tiri fuori il suo rancore, qui a carta bianca. Qui non esiste il politicamente corretto. Mezza sega che guardi porno su internet. Quattro occhi del cazzo. Se lavorassi per me, ti farei scoppiare dalla mattina alla sera per il piacere di vederti mandare a monte la tua vita. Ti metterei alla graticola nella speranza di un tuo passo falso per cacciarti a pedate dall'azienda e vederti nella merda fino al collo per pagare le rate di una cazzo di macchina grossa quanto un camion in cui giri da solo perché non hai le palle per scoparti una donna! Guardi, la faccio smettere, se no... Se no cosa? Prendi il manuale per vedere quello che c'è scritto! Lo finisca subito, se no non vale nulla! Cosa? Forza, forza! Altrimenti è meglio che lasci perdere, io ne chiamo un'altra! Una che non sia una sbruffona! Basta, io me ne vado! Tutta parole e niente palle! È finita! Dottoressa, come va la sua caviglia? Spero proprio che non vorrà farci causa. No, tutto bene, grazie. Ma cos'era quello schiaffo? No, no, niente. L'ingegnere si è sentito male e la dottoressa cercava di farlo riprendere. Sì, è vero. Un mancamento, la tensione. Noi usciamo un attimo. Mi dispiace. No, non è nulla. Si rimetterà subito. Nel frattempo, vediamo un po' anche con lei quello che ha scritto nel foglio. Lo ha già fatto con gli altri? Certo, certo. Quindi sono l'ultima? Non si preoccupi, non ha nessuna importanza. Ma io avevo capito che se li era già letti. Sì, è vero. Lei ci ha chiesto di essere sinceri, ma lei? Lo è stato? E lei? Lo è stata? Sì, certamente. Da qui vedo fondamentalmente che lei è alla ricerca di un buon lavoro, qualcosa di stabile, vero? Veramente non mi pare di aver mai usato questo termine. Ecco, io ho scritto... Mi sbaglio forse? Insomma, no, certo. Ecco, in fondo avere voglia di un buon lavoro può essere anche desiderare stabilità, perché no? Specie se si esce da un periodo difficile. Anche sì. Dal suo curriculum ho visto che lei conosce molte lingue. Sì, oltre l'inglese, il francese e lo spagnolo, parlo discretamente anche il russo e il portoghese. E il cinese, lo sto imparando ora. Complimenti. Grazie, mi sono sempre piaciute. Io ho la dote di imparare viaggiando. È un'ottima dote, unire l'utile al dilettevole. Sì, e ho spesso ricoperto incarichi in agenzie internazionali, specie nel terzo mondo, anche se però sono sempre stati contratti... a progetto. Peccato, le piacevano questi incarichi. Sì, molto. Idealista. Come? E con la famiglia come faceva? Quale famiglia, scusi? La sua? Non ha un compagno, un fidanzato? Ah, sì, e adesso, ma prima no. Quindi è vero che adesso cerca un po' di stabilità. Anche, sì. Ma questo incarico potrebbe portarla fuori spesso, lo sa? Ma certo, lo immagino. Quindi? Quindi cosa? Quindi deduco che lei lo fa per soldi. Anche? Sì. Anche? Oppure per... Ecco, io credo che i soldi non facciano mai male a nessuno, soprattutto se guadagnati con un buon lavoro. Non fa una piega. Lei ha sempre la risposta pronta. Mi piace questo suo modo corretto, diretto, semplice. Grazie. E vorrebbe avere figli? Ah, non so, forse, magari un giorno, non dico. Allora mi rimangio tutto. Come dice, scusi? Dottoressa, le ho appena fatto i complimenti per il suo modo diretto e sincero e lei mi risponde con un non so che fa acqua da tutte le parti. Sì, mi piacerebbe, ma io non ci vedo nulla di male. Ecco, ci voleva tanto, la sincerità premia sempre. A meno che l'azienda non abbia una politica discriminatoria nei confronti delle donne che poi potrebbero diventare madri. No, niente di tutto questo gliel'assicuro. Benissimo. Anche se però... Allora possiamo parlare delle condizioni di contratto? Tipo? Mensilità, disponibilità, ferie, progressione di carriera. È un cambiamento che le costa, vero? Costa cosa, scusi? Sentami, scusi, con il dovuto rispetto, ma io credo che più che una selezione per un ruolo dirigenziale, qui si stia facendo della psicologia della domenica. Beh, gli altri due candidati non la pensano proprio così, dottoressa. Uno che scappa e l'altro che lo prende a schiaffi? No, sentami, scusi, sinceramente non mi interessa quello che pensano gli altri aspiranti. Sono solo due persone molto disponibili, tutto qui. Perché? Lei non lo è? Disponibile a cosa? Il suo fidanzato è ingegnere? Sì, informatico. Avrei voluto qui lui prima invece di quei palmieri. Detto fra noi, quello di computer non ci capisce nulla. Ma l'ingegneria ha varie specializzazioni, non tutti si intendono di informatica. Anche questo è vero. Sì, però cosa c'entra il mio compagno, scusi? Forse perché non sarebbe contento della sua disponibilità. E per quale motivo? Qual è la posizione del suo compagno rispetto al suo progetto lavorativo? La sua posizione? Un ingegnere bravo dovrebbe avere un buon lavoro, ben retribuito. Sì, senta, vogliamo parlare di scatti, benefit, trasferte... Ne ha parlato con lui? Di cosa? Di questo lavoro! Certamente. Davvero? No, in realtà no. No, e perché? Perché non lo ritenevo necessario. Strano, non trova? No, per niente. Io penso che se lei non gliel'ha detto è perché pensava che lui non sarebbe stato d'accordo, sbaglio? Forse. Forse? Forse. Lei nasconde spesso quello che fa a chi le sta vicino. Non capisco. Ripeto, lei nasconde spesso quello che fa a chi le sta vicino, dottoressa? Ah, adesso capisco. Mi sta chiedendo se mento. Se dico le bugie. Mi scusi, ma dove siamo? Alle elementari? Potrebbe anche essere, perché no? Allora, le dice o non le dice le bugie? E va bene, qualcuna, sì, la dico, lo ammetto, maestro. Ecco la sincerità. È contento? Contento. Lei, dottoressa Antonelli, è una persona piacevolissima. Grazie, adesso possiamo anche parlare. Anche se però ammetterà che affidare un incarico importante a una persona che mente non è proprio il massimo. Sì, però adesso... E probabilmente è una cosa che lei fa spesso, sì, dire menzogne, balle, ingannare. Io credo che lei stia esagerando. No, ma guardi, dottoressa, che io mi comporto alla stessa maniera. No, a me non interessa quello che lei fa nella sua vita privata. Per dirne una, io ho una relazione con una mia collaboratrice. Ah, buon per lei. E lei pensa che io l'abbia detto a mia moglie? Ah, no, ovvio. E questa non è certo sincerità, anzi... Ma io non mi sento assolutamente in colpa. Forse dovrebbe. E perché scusi? Ma lei pensa che se mia moglie sapesse che io la tradisco, sarebbe contenta? No. E allora io non glielo dico. Che è più o meno quello che fa anche lei, no? Ma io non vado a letto con altri. Ah, questo lo dice lei? Ma come si permette? E tenuto conto che è una bugiarda, Cosa? Potrebbe tranquillamente raccontarmi una palla. No, senta. Ma questo non ha nessuna importanza, perché io non sono qui per giudicare i suoi comportamenti. E per fortuna! Io sono qui per capire quello che lei è disposta a fare per noi. Io sono disposta ad essere disponibile. Perfetto! Sì, ma lei mi mette in bocca cose che non sono mie e che io non ho mai detto. Davvero? Sì, che sono bugiarda, che non voglio figli, che tradisco il mio compagno e che magari viaggio perché voglio scappare di casa o chissà che altro. Ah, questo ora me lo sta dicendo lei. Sì, ma che cosa ha capito? E credo anche che sia vero. Non è vero, no, non è vero. Io amo la mia casa, il mio compagno, la mia famiglia, i miei amici, anzi le dirò di più. Io non le ingannerei mai, ha capito? Mai. Certo, certo. Ecco, appunto. Però lei è qui alla ricerca di un lavoro importante che potrebbe essere una svolta per la sua vita senza averlo detto all'uomo con cui divide la sua vita, da cui vorrebbe i figli che in sostanza lei ama. Sì, ma non è così importante. Io cerco solo di capire perché tutto qui. Ecco, non se lo chieda. Forse non lo ama. No, guardi, ma senta, ma possiamo parlare di altro? Mi scusi, parliamo d'altro. Benissimo. Allora, mi dica qualcosa di questi incarichi presso le agenzie internazionali che ha ricoperto in questi anni. Bene. Dunque, dopo la laurea e un periodo di stage presso la Comunità Europea, sono diventata executive manager per 2 anni in un progetto di cooperazione e sviluppo. Lei lo ama, ma lo tradisce. Cosa? Non mi dica che non lo tradisce perché non ci credo. No, non lo tradisco. Ah, ma lo inganna, vero? Ma no. Tradire è un termine troppo crudo, è la nuova dirittura morale, che tra l'altro io condivido. No, senti, io vorrei sapere che cosa diavolo vuole lei da me! Non si alteri, stavo solo seguendo un ragionamento. Lei prosegua, non mi dia retta. Dunque, dicevo, 2 anni nel progetto di cooperazione e sviluppo di cui ha il materiale in allegato nel curriculum. Ecco, io dirigevo i 2 team, uno in sede e uno fuori sede. E perché lo fa? Perché io credo fortemente nelle forme di costruzione di competenze condivise. No, perché va a letto con altri uomini? Ancora? Il suo forse non la soddisfa abbastanza. Ma oppure è una sua perversione. Cosa? Ho capito. Lei voleva cambiare vita, ma si è costruita una gabbia. No. E ora cerca di evaderne. Questo lavoro è la chiave per uscirne fuori. No, guarda, per esempio, esattamente, quando sto con la mia amante, qui, dopo l'orario d'ufficio, e facciamo sesso, e lo facciamo in modo molto spinto, come mai chiederemo di farlo ai nostri partner? Lei fa per me delle cose estreme, ripugnanti, ma eccitanti. Ecco, in quei momenti io penso che lei ha un marito e 2 figli e che poi tornerà a casa da loro con ancora il mio odore addosso e preparerà la cena, si siederà a tavola, eccetera. E lei mentirà su quello che ha fatto. Racconterà un sacco di cose assurde che in quel momento saranno vere. Incredibile, vero? Ecco, lei, dottoressa, come definirebbe tutto questo da un punto di vista morale? Io credo che la sua collaboratrice, se lo fa, è perché le piace. Effettivamente, le piace. Assunto. E se lei lo ha capito, vuol dire che conosce bene quel piacere. Adesso non diventi offensivo, la prego. E perché? Non le piace sentirsi addosso le mani di un altro? Provare piacere facendo per lui qualsiasi cosa e poi mentire. Questo non c'entra con il nostro colloquio. Però le piace. Non sono cose che la riguardano. Come la mia amante. Io credo che goda con me come non ha mai goduto col marito. Non se ne vanti troppo. Perché? Magari lei finge perché lei la ricatta. Voi uomini, voi non saprete mai se noi godiamo veramente oppure facciamo finta. Rassegnatevi. In effetti, potrebbe essere. In fondo lei lavora nell'ufficio che io dirigo. Lei pensa che io la costringa con l'arma del lavoro? Ma non lo so, però capita. Capita cosa? Che noi donne siamo costrette a scendere a compromessi pur di avere il lavoro. Magari a farvi scopare, a dire bugie. Anche. Io però penso che debbano esserci delle motivazioni forti dietro per fare queste cose. Certamente, però mi creda, altre volte si tratta semplicemente di aprire le gambe. E lei pensa che la mia collaboratrice abbia come motivazione il posto di lavoro? Può darsi. Oppure? Oppure che voglia uscire dalla banalità del sesso quotidiano e godersi qualche momento più eccitante rispetto a quello fatto in casa e che quindi lei diventi solo uno strumento. Ecco la sincerità. Brava. Grazie, ma non è che ci voglia un gran psicologo per capire una banalità di questo tipo. Ma mi scusi se la sua virilità ne esce svilita. Può darsi. Lei però non mi ha ancora detto perché mente al suo compagno. E va bene, se proprio ci tiene glielo dico. Prego. Lui ha 40 anni e ha perso il lavoro. Cerca ma non trova. Non trova un incarico, come dice lui, alla sua altezza. E con i miei contratti sempre a progetto non possiamo garantire gli standard a cui siamo abituati. Né tantomeno a pensare di costruire un futuro. Figli, casa, eccetera, eccetera. Abbiamo così chiesto dei prestiti. Debiti. Prestiti e questa occasione di questo lavoro sarebbe davvero l'opportunità per noi per metterci in gioco. Perfetto, allora perché questo segreto? Ma non è un segreto, è solo che ho pensato che potesse diventare un problema per lui. Un problema? Sì, un problema. Voi uomini, forse lei non lo sa perché è uomo, ma siete molto suscettibili in termini di lavoro e soprattutto di confronto con il lavoro della propria compagna. Mi creda, lui non fa certo eccezione. Allora ho pensato che sì, potesse diventare un problema. Lui che cerca, e io che trovo. Allora a questo punto non gli ho detto niente, o gli ho detto una bugia, veda lei. Tutto qui. Contento? Lei fa di sé un ritratto molto bello, edificante, complimenti. Io credo che non ci sia uomo che non la vorrebbe come compagna. Grazie. Casa, famiglia, lavoro. Il suo ingegnere è un uomo fortunato. Grazie, quindi lei crede che potrebbe essere questa un'opportunità? C'è anche da dire però che la ricerca di un nucleo familiare stabile e radicato potrebbe non essere un vantaggio per la nostra azienda. Noi cerchiamo la massima disponibilità in qualsiasi momento. Ma certo, non si preoccupi di questo. No. Ma no, io non sono certo una che mette la famiglia prima del lavoro. E allora lei mi delude. No, aspetti. Prima dice una cosa e un attimo dopo il contrario. Sì, ma non... Ma non è che mi sta prendendo in giro per impietosirmi? No. Per ottenere l'incarico in un momento in cui i suoi due colleghi non ci sono? No, guardi, gliela assicuro io. E se lei mentisse su tutta questa storia? Perché? E se lei fosse soltanto una capace di raccontare una marea di palle per infinocchiarmi? No, guardi, lei è fuori strada. Ma che razza di donna è lei? Che usa i valori sacri come la famiglia, i figli, i sentimenti per raggiungere quello che vuole. Bastava che mi dicesse che aveva bisogno di soldi, che voleva scappare dai vincoli di un legame affettivo che la opprime. No, senta. A questo punto posso dire sinceramente che il suo modo di fare è assolutamente amorale, unito al suo aspetto fisico, direi, se mi consente, avvenente. No, guardi. Fanno di lei una donna che potrebbe essere molto utile agli scopi della nostra azienda. Davvero? Ma certo, a patto che lei fosse assolutamente disponibile a soddisfare qualsiasi cosa le venga chiesta dall'azienda. Qualsiasi cosa mi chieda l'azienda, ma ovvio, certamente. Benissimo, allora. Sì, bene, purché non si scontri con le mie priorità. E sentiamo una buona volta quali sono queste priorità. Guardi che lei mi sta facendo perdere tempo. Ma cosa vuole? Che chiami i suoi due colleghi? Allora! Le mie priorità sono quelle che lei già conosce. Un compagno a cui mente? No, non è vero. No. Non volevo ferirlo. Dei figli che non avrà, perché tanto lei scappa dalla famiglia. Non è vero, io li voglio. E quale casa? Quale moralità se lei se ne va in giro per il mondo, magari scopando con il primo collega che le capita, per poi servire una cena di avanzi a un povero fesso? Non è vero! Me l'ha detto lei prima, dimentica? Sì, ma non nel senso. Ma cosa fa? Si rimangia ancora quello che dice? Ma lei mi mette in bocca cose che non sono mie, che non ho mai detto. E quanti ne ha avuti? Non sono cose che la riguardano. Tanti che ha perso il conto. Mi piace, ma non sono cose che la riguardano. E quello che le piace? Lo dice al suo ingegnere. Non devo mica dirgli tutto. Con me, invece, deve essere sincera. Perché guardi, a me di quello che fa non mi importa proprio nulla, né come esaminatore, né come uomo. Bene, così finalmente possiamo chiudere questo discorso. Però io dico, e faccia uno strappo. Strappo? Ma sì, qui adesso uno strappo alla sua nuova moralità. Usi la menzogna per raggiungere quello che vuole. No, allora... Shh, non dica nulla. Lo sa che quando si altera la sua voce mi eccita, no? Ma cosa fa? È timida? Ma sia se stessa. Ma... Io lo so che le piace sentire questi brividi. Non si eccita sulla l'idea che dovrà mentire, godere e mentire. Non si tratta di questo. No, quando avrà questo lavoro sarà solo grazie alla menzogna, non la eccita? Io credo che lei stia esagerando. Io penso invece che lei sarebbe una collaboratrice perfetta. Con poco sforzo potrà avere più di quello che desidera. Non voglio più. Cosa non vuole? Non voglio più mentire, tradire, ingannare, no. No, per noi sarebbe tutto corretto, autorizzato. No, va bene. Chiediamo poco, in cambio diamo tanto. Senti. Lei mi piace da quando l'ho vista. Ma poi sarebbe sicuro che il posto sarebbe... Il lavoro è già in tasca sua. Ma io poi come faccio con... Mentendo, lo sa fare benissimo. Sì, ma lui... Ma lui non esiste, pensi a sé. Lei mi confonde. Deve solo essere se stessa, deve solo mentire per me. Sì, ma come facciamo qui adesso? Ma qui adesso non entrerà nessuno. Sì, ma poi lei... Lei fa per me e io per lei. Ma poi quando rientro lui... Lui non si accorgerà di nulla. Oh, finalmente sono arrivati gli altri due concorrenti. Prego, se vogliamo sederci, metteremo finalmente la parola fine a questo colloquio. Dunque, in ultima analisi ho deciso chi avrà l'incarico. Finalmente! Allora chi ha scelto? Al tempo, ingegnere, la politica dell'azienda prevede, cioè, che vengano gratificati anche i due concorrenti che non sono riusciti idonei, ma che comunque hanno gentilmente offerto il loro tempo per questa selezione. E quindi? Ecco qui. Due assegni, da 5.000 euro ciascuno per i due candidati che non hanno ottenuto il posto. È una cifra ridicola rispetto allo stipendio che avrà chi verrà assunto, ma ragguardevole per chi è senza impiego. Ma questo è bianco, non c'è scritto chi è intestato. Anche questo. Che significa? Chi è che verrà assunto? Sarete voi a mettere il vostro nome. Naturalmente, chi pensa di non aver avuto il posto? Non capisco. Prendeteli e scriveteci il vostro nome. Almeno ci avrete guadagnato qualcosa da questa mattinata. Come mai sei tanto sicura di essere stata presa tu? Tu di certo non sei stato assunto, e neanche tu. Pensa per te. Non è calandosi i pantaloni o alzandosi la gonna che si ottiene quello che si vuole. Per quello sono buoni tutti. Ma lei mi aveva assicurato... Ingegnere, se lei vuole si prende l'assegno. Io non lo prendo di certo. Prendilo, che ci paghi la rata del mutuo. Io credevo che lei... Ingegnere, lei sa come la penso, ma la politica dell'azienda prevede che vi siano opportunità per tutti. Il carattere e la disponibilità pagano sempre. Ma falla finita. Resta inteso che se l'assegno lo prende il candidato che io ho selezionato, non avrà più il posto, eh? Se lei è prescelto e prende l'assegno, il posto andrà a chi non l'ha preso. Prenditi i soldi, sfigato, e vattene a giocare a calcetto con gli amici. Prenditi tu e togliti dai piedi. Mi piace la vostra competizione, ma sono costretto a ricordarvi che fra 10 secondi esatti io ritiro gli assegni e chi non avrà il posto non avrà neanche i 5.000 euro. 5. Tempo scaduto. E adesso? Sì, adesso? Chi è che avrà il posto? Devo dire che adesso la situazione è cambiata. Ma come? Ciò è dato che nessuno di voi tre ha preso l'assegno, rimette in gioco tutti, aprendo nuove prospettive. No, Santa, non è possibile continuare così. E invece è possibile, se non reggi, vattene. Io reggo benissimo, e la dovete smettere di trattarmi così. Ma falla finita, che stavi in ginocchio a fare chissà che cosa. Ingegnere, lei è in minoranza, si faccia valere. E come? Strisciando? Se sei buono, quando avrai il posto, ti assumerò per il piacere di vederti svuotare i cestini e schiacciarti le palle. Stronza! Stronza! Ehi, fermo! Qualcosa! È un'ora che lo provoca! È un suo diritto! Stronza! Ma siete tutti impazziti! Stai zitta, puttana! Puttana! Sì, ci vai a letto per ottenere il posto, smettila di fare la finta! Prendami, prendami, io sono disponibile per qualsiasi cosa! Mi fai schifo! Pensa per te! Anche se io striscio in privato, voglio il successo per farmi valere! Lei veramente vuole assumere uno così o una misera puttana? Io non voglio niente, dottoressa, ma questo lavoro necessita di doti estreme che io devo verificare! Non ci posso credere! E allora? Anche come puttana non vali nulla. Ma lei mi aveva detto, mi aveva assicurato che era dalla mia parte. Io non sono dalla parte di nessuno, io faccio soltanto il mio lavoro. Sì, sì, ho quasi finito. Sì, sì, no, no, certo, nessun problema. Nessun problema. Mettetevi tutti da questa parte, prego. Che vuol dire? Da questa parte, vicini. Ma la telecamera è in funzione. Ci riprendevate? Certo, era scritto nel foglio della convocazione. Io non l'ho visto. Io non ero a conoscenza. Non potete fare questo senza un consenso. Avete firmato per il colloquio? No. Avete firmato anche la liberatoria delle riprese. Ma che cosa servono le riprese? Non è lei che decide? Io non decido. Io lavoro per l'azienda. Eseguo gli ordini. Sono disponibile. E allora? Che fine fa questo colloquio? Per cortesia, fate silenzio e rimanete bene in vista. Voglio parlare col suo capo. Stia calmo, ingegnere. Non è possibile, non è possibile! Che cos'è quella? Attenzione! Che cos'è? È una pistola! Ma che cosa vuole fare? Ci vuole sparare? No! Ci vuole mettere paura! Questa pistola la userete voi! Noi? In che modo? modo dovremmo usarla. Ma quale modo e modo? Io voglio il posto che mi spetta e basta. Loro vogliono questa prova e vogliono guardare. Ma loro chi? Se vi sta bene, bene, se no chiudete qui, andate a casa. Io non chiudo proprio nulla. Nemmeno io. Senta, lei mi aveva promesso. Il lavoro è obbedienza. Più si riceve in busta paga, più bisogna obbedire. Io sono pronta. E dovremmo fare una roulette russa. Una roulette? Ma roba da film! Io amo il cinema, assolutamente! Secondo me i proiettili sono a salve. Se pensa che sia una salve, la prenda e la usi. Certo, ecco, che devo fare? Premo il grilletto! Faccia attenzione, perché è carica! Ma insomma, che diavolo dobbiamo fare per avere questo maledetto posto? Insomma, basta giochetti, che cosa dobbiamo fare? È pronto? Bene. Chi è pronto? Lei fa sempre troppe domande, ingegnere. Le cose si fanno e basta! Oddio! Chi è quest'uomo incappucciato? Forza! Chi gli spara avrà il posto! Ma siete tutti pazzi qui dentro! Ci vuole poco! Solo un colpo! Assumerete chi sparerà a questo disgraziato! Ma non c'è niente di male! Abbiamo fatto tutti così! Non mi fregate! Chi spara va in galera! Conto fino a tre! Poi non c'è più appello! Uno! Aspetti! Due! Non è possibile! Tre!